Martedì, terza settimana. Lodi mattutine. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Inno. Già l'ombra della notte si dilegua. Un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria. O Padre Santo, fonte d'ogni bene, effondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen. Prima antifona. Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe, hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, hai cancellato tutti i suoi peccati, hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira. Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di età in età estenderai il tuo sdegno. Non tornerai tu forse a darci vita perché in te gioisca il tuo popolo? Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore. La sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Quando il Signore allargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Sei stato buono con noi, Signore, hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Seconda antifona. L'anima mia anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca. Abbiamo una città forte. Dio ha eretto a nostra salvezza mura e baluardo. Aprite le porte, entri il popolo giusto che si mantiene fedele. Il suo animo è saldo. Tu gli assicurerai la pace, pace perché in te ha fiducia. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna. Il sentiero del giusto è dritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, in te noi speriamo. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia, al mattino ti cerca il mio spirito, perché quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, poiché tu dai successo a tutte le nostre imprese. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca. Terza antifona. Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti, esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,